La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Pigolò, straordinario pittore di Villanova. Una fiaba moderna liberamente ispirata ad un racconto di Francesca De Carolis, scritta e messa in voce da Gaetano Marino. Nel sud dell'isola di Ichnos accadde in quel tempo che in una soffitta di Villanova, uno tra i più antichi quartieri della città di Castello, vivesse un pittore assai conosciuto. Il suo nome era Pigolò. Che nome buffo, vero? In verità, quello era il suo soprannome. E bisogna dire che mai soprannome fu più azzeccato. Ora sono sicuro che molti appassionati vorranno sapere qualcosa di più su questo grande artista. Beh, diciamo subito che non serve essere intenditori d'arte per spiegarlo, dato che le sue opere furono il frutto di ciò di cui lui si cibava. O, se preferite, potremmo chiamare scientificamente quel frutto con il nome di guano. Eh sì, perché il famoso pittore Pigolò non apparteneva alla razza umana. Egli era un pennuto, e più precisamente un gabbiano, un comune gabbiano bianco, dal dorso grigio, che amava dipingere, diciamo così, con uno stile personalissimo e inconfondibile. Tutti i giorni e alle ore giuste, signor Pigolò, al comando del suo stormo dal nome inequivocabile Motti Imbratto, spargeva dal cielo il suo guano su un preciso punto di Villanova. L'obiettivo, la vittima designata da sempre di Pigolò e del suo stormo, era un uomo dalla testa pelata che abitava all'ultimo piano di una palazzina nel quartiere di Villanova. Di lui non si è mai saputo il nome, ma il soprannome sì, ovviamente. Testa di parafango, che poi con il tempo gli cambiarono pure quello. Ma perché, dunque, era su quell'uomo dalla testa pelata che Pigolò e i suoi amici concentravano le loro scorrerie alate? Dopotutto, Pigolò apparteneva ad una famigliuola di gabbiani semplici e umile. Il padre e la madre, come ogni anno, avevano fatto il nido di famiglia in cima alla solita palazzina. E la lieta novella fu che quell'anno sarebbero venuti al mondo due pulcini, anche se bisogna dire, in sincerità, che di solito essi sono un po' bruttini e assomigliano ad un malnutrito tacchino spennacchiato. Ma il destino crudele volle che il più grande dei due, appena venuto fuori dal piccolo uovo, venisse catturato dal gatto randagio del borgo, Gaston, detto Occhio Storto. Il felino, seguendo il proprio istinto predatore e approfittando di un momento di assenza di mamma e papà gabbiano, impegnati a cercar cibo in giro per la città, arraffò il neonato Pulcino e lì per lì, senza nemmeno un lamento del piccolo, se lo mangiò in un solo boccone. Fortunatamente, mamma e papà Gabbiano arrivarono in tempo per scacciare Occhio Storto, che già puntava sull'uovo rimasto ancora chiuso. Finalmente, dopo qualche giorno, l'uovo si aprì e subito il nascituro, con ancora le palpebre abbassate, pigolò con vocina flebile, spalancando il beccuccio verso l'alto in attesa d'essere imbeccato da mamma e papà. Un beccuccio davvero grande e sproporzionato rispetto al proprio corpicino. E pigola, e pigola, e pigola, quel pigolio si faceva sempre più intenso, giorno e notte, senza tregua, al punto che qualcuno, infastidito, provò a scacciar via la famigliola di Gabbiani. Accadde in un pomeriggio. Quel qualcuno attese che il Pulcino restasse solo nel nido. Poi si arrampicò sul tetto per raggiungere il nido. Il Pulcino sentì d'improvviso avvicinarsi al nido l'ombra di un'enorme testa pelata. Impaurito, il Gabbianino sentì il terrore che lo fece tremare, pigolò forte, poggiò male una zampetta e cadde dal nido, finendo in un cortiletto semibuio pieno di masserizie e dove nessuno da anni vi entrava, tranne il randagio Gaston, il quale, sentendo il pigolio disperato del Pulcino provenire dal cortiletto, saltò rapido la recinzione ed entrò con l'intenzione di farsi un altro spuntino. Ma non aveva fatto i conti con mamma e papà Gabbiano, che tornando dalla discarica poco distante sentirono il pigolio disperato del proprio figliolo, stridettero a squarciabecco, scendendo in picchiata, avventandosi sul gatto. Subito li seguirono compatti e in formazione d'attacco lo stormo dei Gabbiani parenti. Occhio Storto sentì le forti beccate dei Gabbiani. Gli strapparono il pelo a mazzi. Le orecchie, il naso e le zampe furono lacerate in ogni punto, finché il povero Gaston, malconcio e ferito, riuscì a trascinarsi fin dentro un pertugio di grondaia e si salvò. E lì dovette aspettare 3 giorni prima di tornare nella propria tana. Intanto, il Pulcino in quei giorni riuscì comunque ad essere sfamato da mamma e papà. Le settimane passavano, le penne completavano la muta e il Gabbiano pian piano si faceva grande, stendendo le ali con poderosi salti nel tentativo di spiccare il primo volo. Era davvero felice perché sentiva che sarebbe stata solo una questione di giorni. E lo sapevano anche i bambini, i nonni, le mamme e i papà del quartierino, che dai loro balconi s'affacciavano sul cortile per applaudire e incitare con un tifo incontenibile il Gabbianino. Durò per giorni e giorni quel trambusto di gioia, e tanto tanto pigolava il giovane Gabbiano che pigolò fu da allora il suo soprannome. Ma qualcuno nel quartierino non sopportava tutto quel baccano che gli depredava ore e ore di beato sonno. Probabilmente egli riteneva che solo la sua specie umana fosse l'unica ad avere il diritto diritto di vivere, come gli pareva. Si seppe poi che quel qualcuno detestava ferocemente i bambini, ritenendo la loro età spensierata del tutto inutile, finché quel qualcuno decise di porre fine a tutto. Accadde quando il cielo era ancora avvolto dalla notte e qualche nonno insonne, mentre s'affacciava al balcone, vide d'improvviso Pigolò zampettare nell'ombra, lento e curioso, per il vialetto che costeggiava un piccolo giardino. Poi più nulla, più nessun pigolio, più nessun richiamo. Solo il silenzio tetro rimase dentro quel cortile, così che in quella notte la tristezza si nutrì della vana speranza di tutti. Il giorno dopo, mamma e papà Gabbiano furono ritrovati senza vita, stesi a terra, accanto ad un marciapiede del piccolo giardino. Qualcuno li aveva avvelenati. Del corpicino di Pigolò, però, non c'era traccia. Cercarono per giorni e giorni, ma fu tutto inutile. Cos'era accaduto dunque? Perché quel gesto terribile? E soprattutto, dov'era finito Pigolò? Alcuni pensarono che probabilmente fosse divenuto pasto di Gaston, Occhio Storto. Ma poi si seppe anche che quella volta il gatto randagio non era riuscito a fare il suo spuntino. Tra i tanti abitanti di Villanova c'era Basciò, un viandante povero che viveva a Villanova da sempre. Tutti conoscevano Basciò ed era amato e rispettato. Ovviamente nessuno lo chiamava con il suo vero nome. Il brav'uomo se ne andava in giro da sempre con quella moneta di rame lucidissima che lui stesso s'era forgiato. Fermava gli abitanti del quartiere e, invitandoli a scommettere sulla loro fortuna di giornata, domandava: «Testa o croce?» Se indovinavi, era certo che qualcosa di buono ti stesse aspettando da qualche parte. Se no, dovevi dargli un bacino sul naso, un bacino per penitenza. E ci azzeccava sempre Basciò. E Testa o Croce fu il suo soprannome. Ebbene, la notte della scomparsa dei Gabbiani e di Pigolò, Basciò aveva visto tutto. Scoprì quell'uomo, dalla testa pelata, avvicinarsi furtivo al cortile abbandonato, mentre teneva in mano un arnese molto grande. Con quell'arnese spezzò la catena e se ne andò, lasciando aperto il cancelletto. Non ci volle tanto per capire. Subito Basciò si diresse verso il giardino e vi trovò il piccolo Pigolò che zampettava, impaurito e disorientato. Pigolava sordo, senza più nemmeno la forza di chiamare mamma e papà. Basciò prese il gabbianino delicatamente nel palmo della mano, lo coprì con il suo pastrano e lo portò con sé al rifugio. Il piccolo gabbiano tenne la testolina piegata in basso e tremava dalla paura. Basciò lo rassicurò con la propria voce calda, poi gli diede un po' di cibo e, terminata la cena, il piccolo gabbiano s'addormentò sereno dentro il cappello di Basciò. Non appena il piccolo gabbiano chiuse gli occhi, sentì fluttuargli intorno una leggera brezza di vento, così che d'improvviso il cappello di Basciò prese forma di un vascello, piumato, dalle sembianze simili a un drago alato, luminescente e bianco d'avorio. Testa o croce gli stava in groppa e lo cavalcava. «Presto, presto, salta su, piccolo!» gridò Testa o Croce al piccolo gabbiano. Ma lui non riusciva a muoversi, tanta era la paura e lo stupore. «Non temere, giovane gabbiano, sei in buone mani! Sali, sali su!» E il piccolo gabbiano montò in groppa al drago. «Bene, dove andiamo, ragazzo?» domandò Testa o Croce. «Dove andiamo? Ma certo, devi dirmi tu dove andare. Questo è il sogno che t'è capitato, ragazzo. Sta a te decidere.» «Sogno? Sto sognando.» «Ma certo che sì. Benvenuto sulla mia drago carrozza. Testa o Croce?» «Scusi?» «Testa o Croce?» Il piccolo gabbiano non riusciva proprio a capire. «Ascolta, ragazzo. Tu sei Pigolò, giusto? Perché t'hanno dato questo nome nel quartiere. Beh, Testa o Croce è il nome che hanno dato a me. In verità il mio nome è Basciò. Ma poi qualcuno te ne regala un altro e chissà perché tutto cambia. Ecco, tu adesso ti chiederai: che ci fa qui questo vecchio barbone? Niente! Davvero, niente! Che tu ci creda o no, il mio compito è quello di arrivare e basta, come ho fatto adesso. Ecco, certo, al principio non se ne capisce la ragione, perché non si deve capire, almeno in un sogno che si rispetti. Non ti pare? Poi arriva un altro sogno e chissà quando, e il ricordo del vecchio sogno rivivisce. Oh, ma quello è l'uomo della drago carrozza! A proposito, ti piace la mia drago carrozza? Sì, bella, vero? Pensa che esiste dal tempo dei draghi. L'ho avuta in eredità da mio nonno. Grande uomo! Questo gioiello non ha mai mancato un sogno, sai? Adesso però sembra che vogliano sostituirla. Eh sì, sì, la mia vecchia drago carrozza. Vogliono darmi qualcosa di più sicuro, dicono loro. La chiamano affidabilità. La chiamano affidabilità? In un sogno? Ma ti pare possibile? Io non capisco questa mania di voler cambiare sempre le cose per dire al mondo: ecco, guardate, questo sono io. Che poi, a forza di cambiare, cambiare, cambiare, si torna sempre al punto di prima e si ricomincia. Dunque, a che serve? Ma, insomma, questa drago carrozza non ha mai avuto problemi. Nessuno dei miei antenati si è mai lamentato. Comunque, per ora siamo ancora sulla mia drago carrozza. E se questa è la mia drago carrozza, significa che è pure la tua drago carrozza. E di conseguenza, se tu c'hai una drago carrozza, vuol dire che ci avrai pure una casa, o meglio, un nido. Appena il gabbiano sentì la parola nido, strabuzzò gli occhi. «Ma sì, il tuo nido!» proseguì Testa o Croce. «Ah, non ci avevi pensato, vero? Non preoccuparti, giovane gabbiano, capita a tutti, ci si perde sempre un po' nei sogni. E dunque, ecco, quello è il tuo nido!» «Dove? Dove?» domandò eccitatissimo il giovane gabbiano. «Ci siamo davanti, ragazzo!» «Ma io non vedo nulla!» «Ma è chiaro! Devi prima scendere, signorino Pigolò!» E finalmente il giovane gabbiano scese dalla drago carrozza guardandosi intorno un po' smarrito. «È lassù, in cima a quella palazzina di case!» indicò Testa o Croce. «Quello è il tuo vecchio nido, che aspetta solo te. Però ecco, sì, ecco, mio caro ragazzo, perdonami, debbo darti purtroppo una notizia triste, molto triste. Sì, ecco, lassù, nel tuo nido, non troverai mamma e papà. No, purtroppo loro sono stati messi al sonno eterno dall'uomo dalla testa pelata della soffitta, che tu conosci bene, testa di parafango, e purtroppo nessuno, ahimè, può restituire la vita a nessuno. Devi farti coraggio, ragazzo. Ma non essere triste, perché non resterai solo. Presto arriveranno altri giovani gabbiani e si uniranno a te. Saranno i tuoi fedeli compagni. Ah, dimenticavo. Il vostro stormo si chiamerà Motti in Bratto. Non devo spiegarti quale sarà il vostro compito, vero? Un sorriso d'intesa s'affacciò sul becco di Pigolò, mentre guardava rapido e torvo le finestre della soffitta dell'uomo dalla testa pelata. Bene, bene, il mio compito finisce qui. Grazie, testa o croce, ti sono riconoscente, disse Pigolò. Ah, lascia stare, rispose testa o croce. Dovere, amico mio, dovere. È stato un vero piacere conoscerti. Ti rivedrò? Domandò Pigolò. Rivedermi? Chissà. Mica siamo noi a decidere i sogni. Buonanotte, Pigolò. E in un momento, testa o croce, svanì nella nebbia dei sogni di Villanova. Rimasto solo, Pigolò volse di nuovo lo sguardo lassù, al suo nido, mentre l'alba restituiva le ombre del giorno. Dopo qualche momento di silenzio, il gabbiano Pigolò stese le sue grandi ali e attese il vento. Quando lo sentì sotto, si accorse di librare in aria e finalmente spiccò il volo per la prima volta verso il cielo alto. Ma non fu il vento a portarlo. Fu invece lui a dominare il vento e, come se fosse da sempre un grande esperto di volo, si diresse al nido, dove attese i suoi amici, perché c'era una missione da compiere. Da quel giorno, tutti i giorni a venire e a tutte le ore, l'uomo dalla testa pelata della soffitta di quella palazzina del quartiere di Villanova, conosciuto con il nomignolo di testa di parafango, fu bersagliato senza pietà dallo stormo Motti in Bratto, capitanato dal gabbiano Pigolò. Quell'uomo infelice dovette trascorrere gran parte dei suoi giorni chiuso nella sua soffitta, mentre i gabbiani di tutto il quartiere scaricavano tutti intorno i frutti del loro desinare quotidiano. E tanto fu il guano scaricato che il soprannome di testa di parafango fu facilmente cambiato dal popolo di Villanova in testa di guano. Il destino imprevedibile cambia sempre a modo suo, si sa, un po' come le nuvole. Avete ascoltato Parole di Storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net